quarto di La Mandragola di Niccolò Machiavelli. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Sì, soave l'inganno al fin condotto, desiato e caro, ch'altrui ch'altrui spoglia spoglia d'affanno, d'affanno e e dolce dolce face face ogni ogni gustato gustato amaro. amaro. O O rimedio rimedio alto e alto e raro. raro. Tu mostri il dritto calle all'almerranti. Tu, col tuo gran valore, nel far beato altrui, fai ricco amore. Tu vinci sol coi tuoi consigli santi, Pietre, veneni e incanti. Atto quarto, scena prima. Callimaco solo. Io vorrei pure intendere quello che costoro hanno fatto. Può gli essere che io non rivegga Ligurio? E non che le 23 le sono 24 ore. In quanta angustia d'animo sono io stato e sto. Ed è vero che la fortuna e la natura tiene il conto per bilancio. Là non ti fa mai un bene che all'incontro non surga un male. Quanto più mi è cresciuta la speranza, tanto mi è cresciuto il timore. Misero a me. Sarà egli mai possibile che io viva in tanti affanni e perturbato da questi timori e queste speranze? Io sono una nave vessata da due diversi venti che tanto più teme quanto ella è più presso al porto. La semplicità di Messer Enice mi fa sperare, la provvidenza e durezza di Lucrezia mi fa temere. Oimè, che io non trovo requie in alcuno loco. Stavolta io cerco di vincere me stesso, riprendomi di questo mio furore, e dico meco: che fai tu? Sei tu impazzato? Quando tu l'ottenga, che fia? Conoscerai il tuo errore, pentirati delle fatiche e dei pensieri che hai avuti. Non sai tu quanto poco bene si trova nelle cose che l'uomo desidera rispetto a quelle che l'uomo ha presupposte trovarvi? Dall'altro canto, il peggio che te ne va è morire e andarne in inferno, e son morti tanti degli altri, e sono in inferno tanti uomini da bene. Atti tu a vergognare ed andarvi tu. Volgi il viso alla sorti, fuggi il male o non lo potendo fuggire, sopportalo come uomo. Non ti prosternere, non ti invilire come una donna. E così mi fo di buon cuore, ma io ci sto poco su, perché da ogni parte mi assalta tanto desio d'essere una volta con costei, che io mi sento dalle piante dei piedi al capo tutto alterare. Le gambe tremano, le viscere si commuovono, il cuore mi si sbarba del petto, le braccia s'abbandonano, la lingua diventa muta, gli occhi abbarbagliano e il cervello mi gira. Pure, se io trovassi Ligurio, io avrei con chi sfogarmi. Ma ecco che viene verso me il ratto. Il rapporto di costui mi farà o vivere ancora qualche poco o morire affatto. Atto quarto, scena seconda. Ligurio, Callimaco. Io non desiderai mai più tanto di trovare Callimaco e non penai mai più tanto a trovarlo. Se io gli portassi triste nuove, io la rei riscontro al primo. Io sono stato a casa, in piazza, in mercato, al pancone degli spini, alla loggia dei tornaquinci, e non l'ho trovato. Questi innamorati hanno l'Oriento vivo sotto piedi e non si possono fermare. Veggo Ligurio andar di qua guardando, debbe forse cercar di me. Che sto io che non lo chiamo? E mi pare pure allegro. O Ligurio, Ligurio! O Callimaco, dove sei tu stato? Che novelle! Buone! Buone in verità. Ottime! È Lucrezia contenta? Sì! Il frate fece il bisogno? Fece! Oh benedetto frate, io pregherò sempre Dio per lui. Oh buono, come se Dio facesse le grazie del male come del bene. Il frate vorrà altro che preghi. Che vorrà? Da Danari. regnene. Quanti ne gli hai promessi? 300 ducati. Hai fatto bene. E il dottore n'ha sborsati 25. Come? Bastiti che gli ha sborsati. La madre di Lucrezia che ha fatto? Quasi il tutto. Come la intese che la sua figliola aveva avere questa buona notte senza peccato, là non restò mai di pregare, comandare, confortare la Lucrezia, tanto che là la condusse al frate, e quivi operò in modo che la consentì. Oddio, per quali mia meriti debbo io avere tanti beni? Io a morire per l'allegrezza. Che gente è questa? Or per l'allegrezza, or per il dolore, costui vuol morire in ogni modo. Hai tu ad ordine la pozione? Sì, io. Che li manderai? Un bicchiere di ipocras che, a proposito, a racconciare lo stomaco, rallegra il cervello. Ahimè, oimè, io sono spacciato. Che è? Che sarà? E non c'è rimedio. Che diavol fia? E non si è fatto nulla, e mi sono murato in un forno. Perché? Che non lo di? Levati le mani dal viso. O non sai tu che io ho detto a Messere Nicia che tu, lui, Siro ed io piglieremo uno per metterlo al lato alla moglie? Che importa? Come che importa? Se io sono con voi, non potrò essere quello che sia preso. Se io non sono, essi avrà dello inganno. Tu di il vero. Ma non ci è egli rimedio? Non credo io. Sì, sarà bene. Quale? Io voglio un poco pensarlo. Tu mi hai chiarito, io sto fresco se tu l'hai a pensare ora. Io l'ho trovato. Che cosa? Farò che il frate che ci ha aiutato infino a qui farà questo resto. In che modo? Noi abbiamo tutti a travestirci. Io farò travestire il frate. Contraffarrà la voce, il viso, l'abito e dirò al dottore che tu sia quello e se il crederà. Piacemi, ma io che farò? Fo conto che tu ti metta un pitocchino indosso e con un liuto in mano te ne venga costì dal canto della sua casa cantando un canzoncino. A viso scoperto? Sì, che se tu portassi una maschera gli entrerebbe in sospetto. E mi conoscerà? Non farà, perché io voglio che tu ti storca il viso, che tu apra, aguzzi o digrigni la bocca, chiuga un occhio. Prova un poco. Fo io così? No. Così? Non basta. A questo modo? Sì, sì. Tieni a mente cotesto. Io ho un naso in casa. Io vo che tu te la picchi. Orbe, che sarà poi? Come tu sarai comparso in sul canto, noi saremo quivi, torrenti e liuto, piglierenti, aggireremo, condurrenti in casa, metterenti a letto. E il resto doverrai tu far da te. Fatto sta condursi. Qui ti condurrai tu, ma a fare che tu vi possa ritornare, sta a te e non a noi. Come? Che tu te la guadagni in questa notte e che innanzi che tu ti parta, te le dia a conoscere. Scuoprale lo inganno, mostrile l'amore le porti, dicale il bene le vuoi e come, senza sua infamia, la può essere tua amica e con sua grande infamia tua nemica. È impossibile che la non convenga teco e che la voglia che questa notte sia sola. Credi tu cotesto? Io ne sono certo. Ma non perdiamo più tempo, e son già 2 ore. Chiama Siro, manda la pozione a Messer Nicia e mi aspetta in casa. Io andrò per il frate, farollo travestire e condurremo qui. E troveremo il dottore e faremo quel che manca. Tu di bene, va via. Atto quarto, scena terza. Callimaco, Siro. O Siro. Messere. Fatti costì. Eccomi. Piglia quello bicchiere d'argento che è drento all'armadio di camera e coperto con un poco di drappo, portamelo e guarda a non lo versare per la via. Sarà fatto. Costui è stato 10 anni meco e sempre mi ha servito fedelmente. Io credo trovare anche in questo caso fede in lui. E benché io non gli abbi comunicato questo inganno, e se lo indovina che gli è cattivo bene, e vedo che si va accomodando. Eccolo. Sta bene. Tira, va a casa Messer Enice e digli che questa è la medicina che ha a pigliare la donna dopo cena subito. E quanto prima cena, tanto sarà meglio. E come noi saremo in sul canto ad ordine al tempo, e facci d'esservi. Va ratto. Ivo. O di qua. Se vuole che tu l'aspetti, aspettalo, e vientene quivi con lui. Se non vuole, torna qui da me, dato che tu gliene hai e fatto che tu gli avrai l'ambasciata. Messere sì. Atto quarto, scena quarta, Callimaco solo. Io aspetto che Ligurio torni col frate, e chi dice che egli è dura cosa l'aspettare dice il vero. Io scema ad ogni ora 10 libbre pensando dove io sono ora e dove io potrei essere di qui a 2 ore temendo che non nasca qualche cosa che interrompa il mio disegno. Che se fosse e fia l'ultima notte della vita mia, perché o io mi gitterò in Arno, o io mi appiccherò, o io mi gitterò da quelle finestre, o io mi darò d'un coltello in sullo uscio suo. Qualche cosa farò io, perché io non viva più. Ma io veggo Ligurio? Egli è desso, egli ha seco uno che pare sgrignuto zoppo. E fia certo il frate travestito. Oh, frati, conoscene uno e conoscigli tutti. Chi è quell'altro che si è accostato a loro? E mi pare Siro, che era di già fatto l'ambasciata al dottore. Egli è desso. Io li voglio aspettare qui per convenire con loro. Atto quarto, scena quinta. Siro, Ligurio, frate travestito, Callimaco. Chi è teco, Ligurio? Uno uomo da bene. Egli zoppo fa le vista. Bada ad altro. Oh, gli è il viso del gran Ribaldo. De, sta cheto, che ci hai fracido. Ov'è Callimaco? Io son qui, voi siete benvenuti. Oh Callimaco, avvertisci questo pazzerello di Siro. Egli ha detto già 1000 pazzie. Siro, di qua. Tu hai questa sera a fare tutto quello che ti dirà Ligurio e fa conto quanto è ti comanda, che sia io e ciò che tu vedi, senti o odi, hai a tenere segretissimo, per quanto tu stimi la roba, l'onore, la vita mia e il ben tuo. Così si farà. Desti tu il bicchiere al dottore? Messere sì. Che disse? Che sarà ora d'ordine di tutto. E questo Callimaco? Sono a comandi vostri. Le proferte tra noi sien fatte, voi avete a disporre di me e di tutte le fortune mia, come di voi. Io l'ho inteso, e credolo. E sommi messo a fare quello per te, che io non avrei fatto per uomo del mondo. Voi non perderete la fatica. E basta che tu mi voglia bene. Lasciamo stare le cerimonie. Noi andremo a travestirci, Siro ed io. Tu, Callimaco, vien con noi, per potere ire a fare e fatti tua. Il frate ci aspetterà qui. Noi torneremo subito e andremo a trovare Messer Enice. Tu di bene, andiamo. Vi aspetto. Atto quarto, scena sesta. Frate, solo, travestito. E dicono il vero quelli che dicono che le cattive compagnie conducono gli uomini alle forche. E molte volte uno capita male, così per essere troppo facile e troppo buono, come per essere troppo tristo. Dio sa che io non pensava ad inuriare persona. Stavomi nella mia cella, dicevo il mio uffizio, intrattenevo i miei devoti. Capitommi innanzi questo diavolo di Ligurio, che mi fece intignere il dito in uno errore, donde io vi ho messo il braccio e tutta la persona, e non so ancora dove io m'abbia a capitare. Pure mi conforto, che quando una cosa importa a molti, molti ne hanno a avere cura. Ma ecco Ligurio e quel servo che tornano. Atto quarto, scena settima. Frate Ligurio Siro. Voi siate bentornati. Stiamo noi bene? Benissimo. E ci manca il dottore. Andiamo verso casa sua e son più di 3 ore. Andiamo via. Chi apre l'uscio suo? Egli è il famiglio? No, gli è lui. Tu ridi. Chi non riderebbe? Egli ha un guarnacchino indosso che non gli cuopre il culo. Che diavolo ha egli in capo? E mi pare uno di questi gufi dei canonici e uno spadaccino sotto. E borbotta non so che. Tiriamoci da parte e udiremo qualche sciagura della moglie. Atto quarto, scena ottava. Messer Nicia travestito. Quanti lezii ha fatto questa mia pazzia! Ella ha mandato le fante a casa la madre e il famiglio in villa. Di questo io la laudo, ma io non la lodo già che innanzi che la ne sia voluta ire a letto e l'abbi fatto tante schifiltà. Io non voglio! Come farò io? Che mi fate voi fare? Oh me! Mamma mia! E se non che la madre le disse il padre del porro, là non entrava in quel letto. Che le venga la contina! Io vorrei ben vedere le donne schizzinose, ma non tanto. Che ci ha tolta la testa, cervello di gatta. Poi chi dicessi impiccata sia la più savia donna di Firenze, la direbbe. Che t'ho fatto io? Io so che la Pasquina entrerà in Arezzo e innanzi che io mi parta da giuoco io potrò dire come monna Ghinga, diveduta con queste mani. Io sto pur bene. Chi mi conoscerebbe? Io paio maggiore, più giovane, più scarso. E non sarebbe donna che mi togliessi danari di letto. Ma dove troverò io costoro? Atto quarto, scena nona. Ligurio, Messer Nicia, frate travestito, Siro. Buonasera, messere. Oh! Non abbiate paura, non siamo noi. Oh, voi siete tutti qui. Se io non vi conoscevo presto, io vi davo con questo stocco il più dritto che io sapevo. Tu sei Ligurio. E tu Siro? E quello altro è il maestro. Ah! Messere, sì. Togli! Oh, sei contraffatto bene e non lo conoscerebbe. Va qua tu. Io gli ho fatto mettere 2 noci in bocca perché non sia conosciuto alla voce. Tu sei ignorante. Perché? Che non me li dicevi tu prima. E dare me ne messo anch'io 2 e sai se l'importa non essere conosciuto alla favella. Togliete. Mettetevi in bocca questo. Che è ella? Una palla di cera. Dalla qua. Che ti venga la seccaggine, pezzo di marigoldo. Perdonatemi, che io ve ne ho data una in scambio, che io non me ne sono avveduto. Di che... Chi era? D'Aloe. Si è in malora. Maestro, voi non dite nulla. Ligurio mi ha fatto adirare. Oh, voi contraffate ben la voce. Non perdiamo più tempo qui. Io voglio essere il capitano e ordinare l'esercito per la giornata. Al destro corno si è preposto Callimaco, al sinistro io. Intra le 2 corna starà qui il dottore. Siro fia retroguardo per dare sussidio a quella banda che inclinassi. E il nome sia San Cucù. Chi è San Cucù? È il più onorato santo che sia in Francia. Andiam via, mettiamo l'agguato a questo canto. State a udire, io sento un liuto. Egli è esso, che vogliamo fare? Vuolsi mandare innanzi un esploratore a scoprire chi egli è, e secondo e riferirà, secondo faremo. Chi v'andrà? Va via, Siro. Tu sai quello che hai a fare. Considera, esamina, torna presto, referisci. Io vo. Io non vorrei che noi pigliassimo un granchio, che fissi qualche vecchio debole o infermiccio, e che questo gioco si dovesse arrifare domanda sera. Non dubitate. Siro è valente uomo. Eccolo, e torna. Che trovi, Siro? Egli è il più bel garzonaccio che voi vedessi mai. Non ha 25 anni e viensene solo in pitocchino suonando un liuto. Egli è il caso se tu dia il vero. Ma guarda che questa broda sarebbe tutta gittata addosso a te. egli è quel che io v'ho detto. Aspettiamo che egli spunti questo canto e subito gli saremo addosso. Tiratevi in qua, maestro, voi mi parete un uomo di legno. Eccolo! Venir ti possa il diavolo allo letto, da poi che io non ci posso venire io. Sta forte, da qua questo liuto. Oimè, che ho io fatto? Tu il vedrai. Cuoprigli il capo, imbavaglialo! Aggiralo! Dagli un'altra volta, dagliene un'altra! Mettetelo in casa! Messer Nicia, io m'andrò a riposare, che mi duole la testa, che io muoio. E se non bisogna, io non tornerò domattina. Sì, maestro, non tornate. Noi potremmo fare da noi. Atto quarto, scena decima. Frate, solo. E sono intanati in casa, e io me ne andrò al convento. E voi, spettatori, non ci appuntate, perché in questa notte non ci dormirà persona, sì che gli atti non sono interrotti dal tempo. Io dirò l'uffizio. Liguri e Siro ceneranno, che non hanno mangiato oggi. E il dottore andrà di camera in sala, perché la cucina vada netta. Callimaco e Madonna Lucrezia non dormiranno, perché io so, se io fossi lui e se voi fossi lei, che noi non dormiremmo. Fine dell'atto quarto.